Prima edizione. Sono le 6 e 15 minuti, allora cominciamo subito con l'aggiornarvi sulle ultimissime notizie, l'ultima ora che vi abbiamo dato proprio nel corso di GR24. La DIA di Caltanissetta sta eseguendo un'ordinanza di custodia del GIP per 3 indagati nella nuova inchiesta sulla strage di Via D'Amelio, in cui morirono, ricorderete, il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Allora, la novità è che queste 3 ordinanze custodie di ordinanza cautelare, tra i domiciliari una in carcere, le 3 più importanti riguardano uno dei presunti mandanti, che è il boss Salvatore Madonia, 2 esecutori, Vittorio Tutino e Salvatore Vitale. Era il 19 luglio del 1992. Così a Palermo, allora, la prima parte delle nuove indagini si è chiusa, interrogate oltre 300 persone coinvolte o informate sui fatti, acquisite migliaia di pagine di documenti anche presso la sede romana dei ROS e dei Carabinieri, presso le sedi dei servizi civili e militari, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e questa mattina, dicevamo, sono scattati questi nuovi arresti. Questa la notizia dell'ultima ora, questa la notizia di questa mattina, maggiori approfondimenti come sempre nel corso della mattinata, una piccola pausa, poi le prime pagine dei giornali. Prima edizione. E alle 6 e 18 minuti, allora cominciamo a guardare quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sui quali naturalmente la notizia che vi abbiamo appena dato ovviamente non c'è. C'è invece è in grande evidenza la tensione politica per quanto riguarda il governo Monti. Allora, carrellata di titoli come sempre, la Repubblica, Giustizia e TV, Berlusconi sfida Monti, il premier pronto a cambiare i vertici Rai, sulla Fiat convoca Marchionne ma il cavaliere non va da Vespa e Alfano fa saltare il vertice a Palazzo Chigi. Corriere della Sera, l'alto là del PDL al governo, Alfano fa saltare il vertice, scoppia il caso. La Stampa, tensione Monti maggioranza, titolo fotocopia per il Messaggero, tensione Monti maggioranza. Uno sguardo anche a quella che è l'apertura del Giornale questa mattina, primo alto là al governo, titola il Giornale, Alfano tira fuori il quid, Casini e Bersani fanno i furbi e tentano il blitz su Rai e Giustizia, il PDL fa saltare il tavolo. I titoli sulle prime pagine dei quotidiani, dove dicevamo la notizia è quella maggiormente in evidenza. Su Il Sole 24 Ore il punto è firmato da Stefano Folli, con il nervosismo di Berlusconi, salta vertice tra Monti e partiti, stop di Alfano su Rai e Giustizia, il governo Monti non può cadere sulla Rai, non in tempi di spread, di finanza pubblica rigorosa e di pressioni dell'Unione. Questo è un dato di fatto, e lo stesso Alfano, nel momento in cui ha rifiutato di andare a Palazzo Chigi con Bersani e Casini, ha voluto mettere in chiaro che il PDL continuerà a votare la fiducia all'esecutivo. Questo il punto di Stefano Folli, questa la notizia politica di giornata. Come dicevamo, ci sarà oggi anche un voto di fiducia alla Camera, e appunto Alfano ha promesso che l'appoggio al governo Monti ci sarà. Il Sole 24 Ore, questo è il punto di Stefano Folli, apertura però dedicata ad un altro tema, alquanto interessante, perché c'è la guida alla nuova IMU, aumenti super città per città. In anteprima Il Sole 24 Ore pubblica quest'oggi le decisioni attese dei comuni per le seconde case e le attività commerciali, gli incrementi arriveranno anche oltre il 200%, cosa decideranno comune per comune, potranno esserci anche profonde differenze. Milano ad esempio, scrive oggi Il Sole 24 Ore, studia sconti solo per gli affitti a canone concordato, così il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che ci ricorda anche la scadenza importante di oggi per quanto riguarda la Grecia, ne abbiamo parlato poco fa in GR24, l'aiuto ad Atene conviene anche alla Germania, l'attesa per lo swap, la conversione del debito greco, per intenderci, il commento firmato da Carlo Bastasin, alle 21 oggi scadrà Il termine per l'adesione dei privati, termine importante per non innescare una nuova reazione a catena. Queste le aperture, centro pagine dedicati ad argomenti diversi. La Repubblica sceglie le tangenti al Pirellone, le tangenti lombarde, tangenti a Milano, sistema PDL Lega, titola La Repubblica, e l'accusa del PM e il pentito dell'inchiesta dice: così portai soldi al Pirellone. La nuova banda dell'Ortica, il commento firmato da Curzio Maltese. L'immagine della Milano ladrona, sorridente e impunita, ha fatto il giro d'Italia. È l'istantanea dell'ufficio di presidenza della regione Lombardia, con 4 componenti su 5 indagati. Così la Repubblica. Il fondo del Corriere, a fondo pagina del Corriere della Sera, alcuni particolari dell'inchiesta: nascondevano le tangenti nei CD. Lega sotto accusa, il racconto di un indagato, Bossi e Maroni che ripetono però Boni non si tocca, e secondo un retroscena del Corriere l'inchiesta farebbe già anche litigare i magistrati di Milano. Il Corriere della Sera sceglie però un altro centropagina, l'appello di Visco ieri per la crescita, il governatore di Banca Italia che ha indicato la via per mantenere il tenore di vita italiano: lavorare di più e più a lungo. Queste le parole ieri di Visco. Il governatore della Banca d'Italia ha lanciato l'appello sulla crescita: lavorare di più, in più e più a lungo. Questo è il percorso per iniziare con determinazione lo sviluppo dell'economia. Altra l'immagine però che trovate sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi è dedicata invece all'8 marzo. Ci sono una serie di donne, da Aung San Suu Kyi a Shiri Ebadi a molte altre, Mary Streep, Patrizia Rossi, Rossella Urro, la festa delle donne attraverso l'iniziativa del Corriere. 8 donne, simbolo del nostro tempo, le 8 donne che ha scelto il Corriere della Sera. La stampa all'8 marzo dedica addirittura l'immagine centrale, proprio la parte centrale del giornale in grande evidenza, e però punta l'attenzione su una questione invece più particolare: l'appello delle intellettuali pubblicato da 6 grandi giornali europei per l'8 marzo, vento di libertà per le donne arabe. Dopo la primavera araba, questo appello per chiedere un vento di libertà anche per le donne del mondo arabo. 8 marzo declinato ovviamente nei modi più vari sulle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Allora il Messaggero sceglie l'immagine delle statue in rosa per l'8 marzo. A Roma si illumineranno di rosa oggi tutte le statue dei personaggi femminili, è previste varie illuminazioni e varie iniziative. Messaggero, il centro pagina dedicata però alle tangenti: trema la Lombardia, PM sistema PDL Lega, come per la Repubblica. Il caso invece su cui punta l'attenzione il Messaggero, caso tutto romano, è il comune di Roma che celebra Chavez e la lite che scoppia nel centro-sinistra romano. Due notizie ancora da mettere in evidenza, curiose quest'oggi, o perlomeno interessanti, insomma, diciamo sulla prima pagina dei quotidiani. Allora, la Repubblica, fondo pagina, due questioni. Uno sollevato dal responsabile della sanità Balduzzi, che dice: basta corse in ospedale nei weekend. Questa la proposta rivoluzionaria che arriva dal ministro della sanità. Rivoluzione per i medici di famiglia: gli studi dovranno essere aperti 7 giorni su 7, così dice Balduzzi. Naturalmente immagino se ne parlerà nel corso della giornata, e parecchio. L'altra questione è il personaggio, il chi l'ha visto della Repubblica, che si riferisce al professor Ponzio Ornaghi, il chi l'ha visto dei beni culturali. Dai crolli di Pompei alla paralisi di Brera, troppi silenzi invece dal ministro dei beni culturali. Questa è la provocazione lanciata quest'oggi dalla Repubblica. Abbiamo tempo ancora per una segnalazione. Allora, sempre sulla pagina della Repubblica, ricorderete, vi abbiamo letto l'altro giorno l'appello di Saviano per la TAV. Oggi parla anche Salvatore Settis, i confini del progresso e gli affari sporchi delle mafie, parlando appunto ancora di TAV, le mani dell'Andrangheta sui cantieri TAV, la denuncia di Roberto Saviano, un grido d'allarme che costringe a ricondurre sul piano suo proprio, quello degli affari, ogni discorso sull'alta velocità, gli affari sporchissimi delle mafie e quelli, si suppone, puliti delle imprese e delle banche. Il discorso sulla TAV va riportato ai confini economici, così le idee Salvatore Settis questa mattina su La Repubblica. Solo qualche spunto, come sempre, per la lettura dei quotidiani di oggi. Più avanti Alessandro Milan vi porterà anche nelle pagine interne, c'è molto altro di cui parlare. Questo intanto un quadro generale dei giornali che trovate oggi in edicola. Noi però vogliamo fare a questo punto un cambio di rotta, prima edizione, allora andiamo in Giappone questa mattina. Perché? Perché domenica sarà un anno dal terremoto a Fukushima, un anno dopo è arrivato però oggi un dato economico importante, vale a dire il PIL è stato rivisto al rialzo. Perché? Che succede? Che succede a Tokyo? Io saluto Stefano Carrer, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, un dato importante, ce lo racconti? Sì, diciamo, poteva andare peggio, cioè l'economia giapponese nell'anno dello tsunami e della crisi nucleare ha retto abbastanza bene. Il prodotto interno lordo del 2011 si è contratto solo dello 0,7%. È un dato migliore delle previsioni perché oggi il PIL del quarto trimestre è stato rivisto al rialzo da meno 0,6 a meno 0,2. Questo grazie a un forte aumento degli investimenti di capitale. Sono le imprese, insomma, che si preparano all'aumento della domanda legato al dispiegarsi delle ingenti spese per la ricostruzione, che ammontano a una vera e propria manovra di stimolo per l'economia, quella che purtroppo, diciamo, l'Italia non può darsi. E quindi l'economia giapponese nel 2012 dovrebbe crescere tra l'1,5 e quasi il 2%, secondo le stime correnti degli economisti, quindi al top tra i paesi avanzati. Ecco, voglio segnalarvi anche che oggi però è arrivato anche un campanello di allarme. A gennaio il Giappone ha accusato un deficit mensile record delle partite correnti, è il primo da 3 anni e quindi lo yen si è indebolito. È un deficit che da molti è considerato temporaneo, ma che segnala il rischio di future difficoltà del paese a finanziare un debito che è il più alto tra quello dei paesi avanzati. E quindi questa cosa gioca in favore degli sforzi del primo ministro Noda per una riforma fiscale e un raddoppio dell'imposta sui consumi, che qui è ferma al 5%. E grazie Stefano Carrer, solo un primo assaggio di quel che sta succedendo in Giappone, perché come dicevo siamo ormai ad un anno dal terremoto su Fukushima. Allora con te ci risentiamo domani per parlare di quel che è successo un anno fa e di cosa sta succedendo a Fukushima, visto che sei stata in quelle zone. Grazie Stefano. Grazie a voi. A domani allora con Stefano Carrer per un più ampio quadro. Nel frattempo noi facciamo una piccola pausa e poi riepiloghiamo le notizie di oggi, a partire dalla notizia che è arrivata proprio in questa mattina, in queste ore, vale a dire i nuovi arresti scattati per la strage di Via D'Amelio. Tra poco. Prima edizione. Con alle 6:35 minuti le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. Ed 8 marzo, buongiorno a tutti e buona mattina da Daniele Biacchesi. Anche per oggi parliamo della figura di Marco Biagi, colpito dalle Brigate Rosse il 19 marzo del 2002, di cui ricorre proprio in questi giorni, il prossimo 19 marzo, 10 anni. Su Clima di quei giorni, Cristina Carpinelli ha intervistato l'allora numero 2 della CGIL, diventato poi segretario, Guglielmo Epifani. Primo ricordo fu la costernazione in cui cademmo alla notizia in quel tardo pomeriggio dell'uccisione del professor Biagi, nel senso che restammo colpiti in una maniera indicibile e ci fu una straordinaria indignazione da parte di tutta la CGIL e del suo gruppo dirigente. Due cose ci colpirono: il fatto che tornassero a colpire queste forme di violenza ancora una volta una figura che era una figura di cerniera nel lavoro tra governo, Parlamento, parti sociali, in fondo come era successo tanti anni prima nei confronti di Massimo D'Antona, cioè ci rivedemmo ripiombare in quel buio. E in secondo luogo siccome l'omicidio del professor Biagi avvenne qualche giorno prima della manifestazione che era stata indetta, quella che poi sarebbe sfociata in quella giornata al Circo Massimo, noi cogliemmo anche un nesso tra la scelta di uccidere Biagi e il fatto che dopo qualche giorno ci sarebbe stata quella manifestazione. Ci sentimmo colpiti due volte per la morte di un uomo e contemporaneamente vedemmo anche una pressione indebita, insopportabile nei confronti di un libero esercizio di una manifestazione democratica. Va detto che nella nostra posizione di critica nei confronti delle scelte del governo, in realtà il tema del mercato del lavoro o su un altro versante dell'articolo 18, in realtà era solo uno dei punti che ci vedevano contrapposti al governo del tempo, perché quello che noi criticavamo del governo era l'insieme della politica economica e sociale che stava facendo. Se si risente un attimo l'intervento che Cofferati fece quel giorno al Fisco Massimo, si trova conferma del fatto che noi sui problemi della politica economica e degli investimenti, della politica scolastica e della formazione, dei temi del fisco, dei temi del mercato del lavoro, dell'università, c'era un insieme di questioni che ci vedevano critici nei confronti delle scelte del governo. Non c'era il tema solo del mercato del lavoro che ci vedeva su posizioni contrapposte, ma tanti insieme di scelte che noi non condividevamo. Quindi questi sono i primi pensieri che ci vennero e oggi a distanza di tempo le considerazioni che possiamo fare. Era l'intervista di Cristina Carpinelli e Guglielmo Epifani. Italia in Controluce termina qui la prima edizione. Ci risentiamo alle 13.30. E siamo alla seconda parte di prima edizione di questa mattina. Ancora buona giornata da Anna Migliorati e buon 8 marzo. Lavoro e famiglia, conciliare si può, e questo il tema che quest'anno il Quirinale ha posto al centro della riflessione in occasione della giornata internazionale della donna. A parlare è già stato il ministro Fornero, che ha detto che in Italia sulle donne non siamo un paese maturo. In un paese normale, parole di Elsa Fornero, le donne non dovrebbero reclamare diritti, non c'è bisogno di tutta questa enfasi, almeno per quel che riguarda il lavoro. Tema opinabile, di donne e lavoro abbiamo parlato a lungo anche noi, ne parleremo naturalmente ancora. Prima edizione di questa mattina, però l'attenzione vogliamo puntarla su un altro aspetto, e allora io saluto la presidente di Telefono Rosa, Gabriella Moscatelli, buongiorno. Buongiorno, buona giornata ai nostri ascoltatori. La prima domanda gliela faccio sul tema che a questo punto ha posto il Quirinale. È veramente ancora il lavoro il tema centrale per una donna oggi, e questa è la nuova sfida vista dal vostro osservatorio? Questa è stata una sfida che negli anni non abbiamo mai vinto, non abbiamo mai vinta né come il numero di donne che sono entrate all'interno del lavoro, specie nel momento in cui hanno deciso di affrontare una maternità, né tantomeno per raggiungere i posti importanti da dove poter essere determinanti nella gestione di un'azienda. Mi congratulo perché la nostra Camera dei Deputati e il Senato hanno approvato recentemente una legge dove le donne possono entrare nei consigli di amministrazione, e chi è contrario. Non è che non potevano prima, a questo punto devono entrare. Adesso debbono entrare, il 30% delle donne debbono entrare, chi è contrario alle quote, io a queste persone dico: attenzione, è un sistema affinché si riesca a scoprire veramente la validità di una donna che ha cervello, preparazione, forse un qualcosa in più che è la sensibilità e la conoscenza della. È forse il momento di provare a dimostrarlo, vedremo se sarà così. Voi avete però, in realtà l'abbiamo chiamata per parlare di un altro tema, perché voi avete come Telefono Rosa raccolto un dato che è impressionante e che non riguarda il passato, riguarda questo 2012, è così? Nel nostro sito www.telefonorosa.it si può vedere già da adesso un filmato nel quale noi abbiamo riportato le fotografie che sono di tutte le donne che sono state uccise dal 1 gennaio al 7 marzo. In 67 giorni sono state uccise 31 donne, uccise da compagni, mariti, fidanzati e padri. Questo è un dato veramente veramente allarmante. La stima è una ogni due giorni. Esatto, una ogni due giorni, ma è un dato che va crescendo dal 2009, 2010, 2011 fino ad aver raggiunto questa fetta in questi 67 giorni. Credo che questo ci richieda di riflettere sulle motivazioni, ci chieda ecco, vi siete di chiesti intervenire. Perché questo aumento? La crisi è complice o sono ancora i rapporti personali? Sicuramente anche la crisi ha determinato alcune situazioni, però è solo una cosa marginale. Il punto centrale è che educazione, preparazione, rispetto dell'altro non è ancora entrato nella nostra mentalità, nel nostro vivere quotidiano. Io credo che fin da bambini, anzi devo dire noi del telefono rosa, crediamo che fin da bambini bisogna insegnare il rispetto l'uno dell'altro. Solo allora, forse, quando questo rispetto sarà vero, riusciremo a avere la parità. La donna è uguale all'uomo, mentre oggi l'uomo considera la donna una cosa sua, un oggetto che possiede, quindi questo oggetto non deve avere... Siete d'accordo con la Fornero che dice basta enfasi, è così nei fatti, basta? Ma basta enfasi, io non ho capito bene perché non ho sentito tutto il discorso. E intanto cominciamo a dire che forse il Ministero delle Pari Opportunità avrebbe bisogno di, oltre che del Ministro che si occupa di altre cose, di una persona che è sempre il Ministro Fornero, infatti, a tempo pieno invece di quelle che sono le problematiche. E mi creda, sono tante le problematiche. E quindi c'è da attuare un programma affinché la parte più debole della nostra società sia aiutata, perché ricordiamoci che laddove c'è una donna che soffre, c'è un bambino che soffre, in una famiglia violenta il figlio, il giovane è quello che poi ne risente di più anche per il futuro. Quindi il Ministero delle Pari Opportunità ha necessità di continuare a lavorare, ha necessità di recepire. Lei dice serve un ministro a questo dedicato, anche in una situazione come questa. Sicuramente in una situazione come questa, che è una situazione allarmante. Grazie. Allora, al di là della retorica, un dovere comunque parlarne ogni della giornata dell'8 marzo. Grazie alla Presidente di Telefono Rosa per essere stata con noi, Gabriella Moscatelli. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Sono le 6:44 minuti, 30 secondi, solo una piccolo flash dei temi che tratteremo in giornata. Ci sono invece le notizie sul traffico, poi parleremo di Grecia. Prima edizione. Ci credono gli investitori privati nel salvataggio della Grecia? Vale più Atene o la speculazione? Alle 21 scadrà il termine per i privati per partecipare al cosiddetto swap del debito greco. In termini pratici, lo scambio di titoli greci che oggi i privati hanno in portafoglio con altri nuovi emessi da Atene, che varranno meno ma il cui valore sarà quanto meno più basso, ma certo. La scadenza, dicevamo, è alle 21 di questa sera. Ecco perché torniamo a guardare ad Atene. Io saluto la giornalista greca Vicky Marcacchi. Buongiorno. Buongiorno. Voi guardate ad Atene, Atene guarda il cielo. È una situazione veramente ormai al limite del collasso. Tante scadenze, ci dicevamo ieri, ce n'è un'altra. Non c'è un po' la sensazione per i greci di dover continuamente dimostrare di essere affidabili e continuamente dimostrare, sta prolungando questa agonia? Più che il prolungamento dell'agonia, parliamo chiaramente, è una doccia scozzese. Cioè, la settimana scorsa grandi sorrisi e grandi speranze, perché era fatta, il pacchetto dell'aiuto è fatto, nuove misure. Adesso un altro conto alla rovescia. Adesso di nuovo un conto alla rovescia. Nessuno spiega la situazione, ma è una continua emergenza. Nessuno può vivere nemmeno a casa propria in una continua emergenza. Immaginiamo se si può vivere così come popolazione, come un paese intero. È vero, la politica, lo Stato, i greci stessi hanno sbagliato tanto, ma così diventa veramente non una punizione, ma questo che esattamente hai detto, una lenta agonia che non finisce da nessuna parte, perché al di là del fatto che hanno aderito un 51%. 51% finora. Bisogna arrivare al 75% entro le 21 come di questa sera. Perché in realtà l'obiettivo era quel 90%. Del 90%. Ci si accontenterebbe del 75%. Il 75% garantirebbe questa sopravvivenza nella zona euro e la sopravvivenza dei titoli greci. C'è il ministro dell'economia Venizelos che ha detto se non si arriva al 75%, rivolgendosi principalmente ai privati greci, i nostri titoli. Qui si va a gambe all'aria. I mercati questa mattina ci credono, anche Tokyo in questo momento è 1,77%. Domanda secca, i greci ci credono a questo punto ancora? Infatti io sto pensando ai piccoli risparmiatori greci che magari hanno venduto la casa del padre 5 anni fa, parlo di casi che conosco, hanno messo ora hanno i titoli e gli svalutano anche i titoli. Banca nazionale greca, perché così gli avevano insegnato i loro padri, i titoli dello Stato sono l'unica sicurezza in questo mondo che cambia, e oggi si chiedono che faccio, do l'ok, cosa mi rimane in mano? Molto probabilmente gli rimane un titolo che vale la metà e che potranno riscuotere nel 2042. O niente. E la scelta è davvero difficile, perché poi appunto molto. Guardiamo ai grandi investitori, ma c'è anche la gente. Non c'è scelta, questa è la realtà. La realtà è che per i piccoli risparmiatori e per i cittadini greci in questo momento non c'è scelta, ci sono impostazioni dall'alto. E questo è. Nel frattempo davvero attendiamo le 21 di questa sera. Questo però è la sensazione, il quadro che si vive in queste ore. Grazie davvero per essere stati con noi, Vicky Markaki, giornalista greca, grazie, buona giornata. Buona giornata. E naturalmente la giornata la seguiremo come sempre a cominciare già da GR24. Io mi devo fermare qui, Peter Pescafè e Viola Bottoni restano con noi. Buona giornata da Anna Migliorati, ci risentiamo tra poco.